tutto. No. Cosa sai? Signora. Bravo. Allora, l'olio essenziale è una miscela di sostanze, poi le vedremo qualcuna, contenute in non tutte le piante, non tutte le piante contengono oli essenziali. Quelle commerciali sono circa 150 gli oli essenziali che si producono nel mondo. Quelli commerciali più usati sono un centinaio, sarebbero molte di più, ma se non hanno interesse, se non, nessuno pensa ad estrarli, ad ottenerli. Gli oli essenziali si ottengono per distillazione in corrente di vapore. Cosa vuol dire corrente di vapore? Avete presente quei mercatini dell'artigianato che vedete in Val d'Aosta, in Trentino, in Veneto, quelli belli di rame, quelle pentole col beccuccio, li avete mai visti per fare clandestinamente la grappa, quelle robe lì? Ecco, continuate a fare la grappa, con quelle robe lì gli oli essenziali non li fate. Perché l'olio essenziale va estratto in corrente di vapore, cioè la droga, pianta secca, che poi ha preso un altro nome ma è un altro discorso, un altro significato, la droga, la pianta secca, non è a contatto con l'acqua, cioè l'acqua sotto, sopra, distanziata dall'acqua, c'è le nostre piante, la nostra droga, pianta secca da distillare. Perché se noi la pianta la mettiamo direttamente nell'acqua, alla fine otteniamo il tè, color marrone. Gli oli essenziali sono quasi tutti limpidi, quasi tutti, pochi sono colorati o appena appena tenui. La lavanda è giallognola, non è blu. La camomilla non è gialla, è blu. In genere sono limpide, trasparenti in genere. Il vapore, attraversando queste piante, cattura queste molecole che vengono trasportati dal vapore. Sono molecole piccoline con 5, 10, 15 al massimo atomi di carbonio, se no sono più pesanti, rimangono lì. Queste vengono trasportate dal vapore. Una volta raffreddato, questo vapore si risepara in acqua e appunto queste sostanze volatili che ha trasportato questo olio essenziale, contenuto in piccole percentuali nelle piante. Si va dallo 0, maggior parte delle piante, al poco, all'1, 2, 3. Sono pochissime le piante che superano il 5-6%. Qualche varietà commerciale di lavanda, la lavanda è una delle più commercialmente più sfruttate, più diffuse, sono stati messi a punto varietà di lavanda che contengono anche alte percentuali di olio essenziale. Immaginate 100 kg di pianta secca, non fresca, perché fresco il 90% è acqua, quindi sarebbe 9 volte tanto, una tonnellata di pianta fresca per avere 100 kg di pianta secca, per ottenere meno di un litro di olio essenziale. Quindi una tonnellata di pianta fresca, 100 kg di pianta secca, 100 kg di pianta secca vuol dire, non so, un metro per almeno un'altezza, tanto così, per arrivare a un quintale di pianta secca, per ottenere quindi meno di un litro di olio essenziale. Raramente si supera il litro, 200, 300, 500, 800 ml. Da qui un po' il costo. Il costo non è tutto qui, perché le piante si prestano più estrazioni. Una volta che io ho estratto l'olio essenziale, le posso utilizzare per estrarre altro. Esempio, la camomilla. Un ricercatore ha messo a punto 20 diverse forme estrattive. Cioè, una volta che io ho estratto l'olio essenziale dalla mia camomilla, poi posso sottoporla ad altre 19 estrazioni, estrarrò sempre qualcosa, quindi quella camomilla lì mi rende 20 volte tanto, no? Continua a rendere. Il semino dell'uva, dal quale si ottiene un olio che da noi è poco usato, soprattutto in Francia, chi lo distilla qui in Italia, chi lo estrae quest'olio, dopo averlo estratto lo rimanda in Francia per fare altre estrazioni, per ottenere altre materie prime. Quindi prima estrazione, seconda estrazione la spremitura per gli agrumi, cioè tutta la buccia, questa non si distilla, si spreme proprio le bucce. Immaginate la quantità di bucce di arancio che ci sono in giro per il mondo, giusto dopo che ti ho fatto la spremuta, la parte migliore dell'arancio è quella che noi buttiamo nell'organico. Buono il succo, tenete presente che nella buccia lì dell'arancio c'è appunto l'olio essenziale, si ottiene per spremitura, tutta la parte bianca è rappresentata da flavonoidi, che sono tanti, che sono, proprio avete presente quel bel buccione, bello grosso, bello consistente, i flavonoidi che sono un po' la parte buona della pianta, cioè quando noi prendiamo la pianta per influenza, raffreddore, per dormire, per digerire, il più delle volte sono i flavonoidi. La propoli, qualcuno la usa? La conoscete? Sono flavonoidi lì quello che a noi interessa, il motivo per il quale prendiamo la propoli. E hanno tante proprietà questi flavonoidi. Quindi spremitura. Una terza possibilità è rappresentata dall'estrazione con sostanze oleose. Piccolo passo indietro. Gli oli essenziali sono un prodotto relativamente recente. Cioè qui egiziani, greci, romani non c'entrano, loro non li avevano, usavano queste piante, i balsami che facevano gli egizi per le loro mummie erano in sostanza degli oleoliti, cioè prendevano queste piante, droghe secche, le mettevano a macero nell'olio, oli vari, per ottenere questi oleoliti, questi prodotti con questi oli che contengono appunto molti oli essenziali, i principi attivi delle piante che usavano per tutti loro. Non sappiamo quando è avvenuta la prima distillazione, l'epoca d'oro è stata il Medioevo della distillazione. Lì si distillava di tutto e si pensa che lì sia stato provato tutto, quello che c'era da provare con le erbe è stato provato nel Medioevo, si distillavano erbe e non solo, si distillavano parti di animali. Fate un salto indietro di 500.000 anni, se io distillo il cuore di un leone e poi prendo il distillato, io a mia volta magari divento come i muscoli di un, il cervello di un, io a mia volta magari divento, si è distillato di tutto, si è distillato, no? No, così, allora, le cose, nel bene o nel male. Dicevo quindi di questi oli essenziali. Oli essenziali, dunque, ottenuti da queste piante che possono avere poi mille usi diversi. L'olio essenziale è sempre quello, poi può avere destinazioni, etichettature e dosaggi diversi. Domanda classica, olio essenziale posso usarlo in cucina per fare dolci, bevande, sciroppo di menta? No, sciroppo di menta, acqua, zucchero, olio essenziale di menta e colorante, già che ci siamo, verde, giusto? L'olio essenziale è sempre quello, a seconda della destinazione alla quale io lo indirizzo, avrà un'etichettatura e un uso diverso. Allora, l'alimentare è particolare, viene in genere diluito, diluizioni e sull'etichetta è anche riportato come va utilizzato. Torta al limone, lì non c'è né olio essenziale né spremitura di limone, sono queste delle puree, sono un purè partendo da un olio essenziale di limone e va usato nel dosaggio di 1 a 100, 1 a 500, 1 a 1000, 1 chilo su 5 kg, 1 chilo su 100 kg, 1 chilo su 1000 kg. Sono quello dell'uso alimentare un pochettino particolare. L'uso cosmetico vuol dire tutto tranne l'esterno, tranne l'uso interno. Il prodotto cosmetico dovrebbe limitarsi ad una funzione esternamente, al massimo si arriva al cavo orale, il dentifricio. Non si va per vie interne. L'uso farmaceutico, l'uso domestico, l'arbre magique, no? È questa spugna imbevuta di olio essenziale, punto. No? Quindi il nostro olio essenziale di eucalipto lo possiamo destinare a tutti gli usi che vogliamo noi, uso farmaceutico per fare uno sciroppo per la tosse, posso farci uso cosmetico, posso farci un bagno schiuma all'eucalipto, posso farci uso alimentare, le caramelle all'eucalipto, posso farci una bevanda, qualche cosa. Per la casa l'arbre magique piuttosto che un diffusore, piuttosto che un eccetera eccetera, è sempre olio essenziale, però parlando di erbe, allora vi dicevo, in genere l'olio essenziale è contenuto in misura intorno all'1%, via, stiamo un pochettino così, dallo 0, all'1%. Tenete presente che le piante sono ricche di principi attivi. Il principio attivo è tutto quello che può modificare il comportamento di una cellula. Diamo qualche numero: nella liquirizia se ne conoscono 240 di principi attivi oggi, probabilmente ce ne sono di più. Nel ginkgo biloba ce ne sono 650, oggi se ne conoscono 650, una miniera. Il ginkgo biloba, una pianta cinese, qua a Milano stanno facendo tutti i viali alberati, stanno facendo con il ginkgo biloba, pianta bellina, non bellissima, bellina, andavano di moda, classico alberello alto 20-30 metri nelle ville del 1700-1800, una pianta che si credeva estinta, poi vabbè, una storia rocambolesca, i cinesi, gli olandesi, materiale di recupero, tac, salta fuori un ginkgo. Le piante hanno delle storie affascinanti, non lasciate perdere quelle cazzate che inventano, che ci sono tutte storie vere che sono altro che affascinanti. La storia delle spezie è la storia del mondo. Cristoforo Colombo è andato in America non per i dollari o il petrolio, è andato per le spezie, quello ci è andato. Se non gli interessavano le spezie, l'America era ancora là adesso, chi è che andava giù a dollari e petrolio, ma chi se ne frega. Dunque, tutte le piante ci sono un sacco di principi attivi, gli oli essenziali a loro volta sono composti da tanti principi attivi. Voi avete qui il vostro flaconcino di menta, bello limpido, bello profumato, che buono che è. Non è una sostanza sola, sono decine e decine di sostanze diverse. Nella salvia ce ne sono circa 64. Nella melissa ce ne sono circa 85, circa 64, circa 85. Vuol dire che non ogni anno è la stessa roba. Io la mia melissa, la mia salvia che distillo, ogni anno sarà diversa. Perché quest'anno ha piovuto troppo, l'anno dopo c'è la siccità, perché questa pianta arriva dalla pianura, dalla collina, dalla montagna, è italiana, è argentina, è egiziana. Alla fine sono tutte quante diverse. Ma per bacco, stavo aspettando un microfono più bello. No, non è che arriva. È arrivato. Stavo aspettando. Per esempio, gli oli essenziali, la pianta li produce immaginiamo farà fatica, ci sarà un certo impegno per produrre questi oli essenziali, ma non li usa. Quindi perché li produce? Si pensa che sia un richiamo, gli insetti, un messaggio che lanciano, che cosa, non lo so, sostanze di riserva da usare in momenti particolari. Qualcuno pensa che non gli oli essenziali, ma altre sostanze, i veleni, la pianta li produce per mandare un messaggio a qualche animale: tu mi vuoi mangiare, io ti avveleno. Ragionamento un po' complicato, non so se le piante ragionano così. I fiori colorati, no? Questo si pensa che sia un richiamo per gli insetti, si pensa. In realtà tutte le risposte avanzate non sono convincenti, o ce n'è per noi umani un ventaglio di ipotesi, vale cioè quella di richiamare gli insetti, vale quella della riserva, vale quella di avvelenare tu mucca umano che mi vuoi mangiare, o c'è una serie di oppure non lo sappiamo perché fanno una cosa del genere. Quindi per se stessi non li utilizzano? Per loro no. Gli oli essenziali li producono, hanno un picco, la produzione, la quantità di olio essenziale nel tempo cresce, si arriva a un picco, poi si trasforma, si ossida, si altera, comincia a decrescere, ma rimane lì, non lo toccano. C'entra qualcosa? Benvenuta Dada, ok, va bene. Quindi sei benvenuta. Scusa, benvenuto. Un certo periodo della pianta. Certo, si fa nel periodo in cui quei principi attivi che mi interessano sono al massimo, che può variare a seconda appunto di quello che mi interessa. Per esempio la menta, poi vi faccio vedere questo grafico, la menta, questo olio essenziale che poi si ossida, si altera, inizia a produrlo, all'inizio avremo una maggior quantità di mentolo, è quello bello fresco, quello delle bevande, quello delle caramelle, del chewing gum. Dopo un pochettino il mentolo si trasforma in mentone, la forma ossidata del mentolo. Il mentolo sarà anche più ossidato, sarà meno buono, meno valido, la differenza è che il mentolo blocca le terminazioni nervose, per esempio la digestione. Il mentone, la sua forma ossidata, la facilita. Per cui se voglio fare un bel liquorino alla menta, vabbè, lo faccio col mentolo perché mi piace, bello fresco, bello, ok, va bene, ma se voglio un digestivo devo prendere la forma ossidata, devo prendere, perché uno blocca la digestione, l'altro, al contrario, la stimola. Mentolo, mentone. Un'altra particolarità delle piante sono i vari chemiotipi diversi. Ci sono piante, vabbè, la lavanda, ce ne sono tantissimi tipi: dolce, canforato, piccante. Il migliore per i profumi è quello inglese. Voi dite piove sempre, il sole è quello che è, il migliore è quello inglese, non è quello nostro, mediterraneo o che altro. Benvenuti signori. Qui vi faccio girare questo foglio. Allora, qui vedete sono due. È stata fatta la gas cromatografia dell'olio essenziale di menta. Il primo o il secondo, viceversa. Il primo è di una menta coltivata in montagna, il secondo o viceversa in pianura. Non state a diventare matti a cercare le differenze, con un po' di attenzione si trovano. Quello che vorrei farvi vedere di questo grafico è che sono state trovate 28 diverse componenti dell'olio essenziale con dei picchi. Per esempio c'è il mentolo, ovviamente, neomentolo, mentolo, mentone, ma anche nomi tipo sabinene idrato, una dei componenti dell'olio essenziale della menta, mentofurano, cineolo, questo è un classico, limonene c'è in tutti gli oli essenziali, limonene dovrebbe dirvi qualcosa, micene, sabinene, pinene, eccetera, eccetera. Questi sono poi i nomi delle componenti degli oli essenziali. Se volete dare un'occhiata, allora, gas cromatografia, cioè ad ogni picco, che sia alto o bassissimo indica una diversa sostanza, una componente chimica diversa. Qui ne sono state riportate 28, ce n'è qualcuna minuscolissima, forse perché non si conosce o forse perché era presente in piccolissima quantità. Picco alto vuol dire che ce n'è tantissimo, tipo il mentolo, se qualcuno lo vuol cercare, il mentolo, il 23 e il 24, eccoli qua, sono i picchi più alti, alti più bassi, per dare un'idea di così, scorrete un po' quelle che sono queste componenti. Non ho capito bene, mi sa. Cioè, prova. Gli essenziali vuol dire, cioè adesso l'elenco che hai fatto adesso, sono tutti diversi tipi di oli essenziali? No, sono le componenti di un olio essenziale. Della menta. Ah, solo della menta. Quello lì adesso, quel grafico lì, se vuoi leggi tutte le parolacce, le 28 parolacce, io ne ho citata qualcuna così a caso. Quelle sono 28 componenti. E come componenti dell'olio? Dello essenziale di menta. Okay. Quella lì è la menta. Quello è uno. Da 28, ti dicevo, salvia sono 64, melissa 82 sono. Queste sono molecole. Queste sono 24 molecole, sì, sostanze organiche sono, molecole aromatiche, piccoline, volatili, a volte, in genere non sono colorate, a volte sì, sono poche quelle colorate, paciuli, le spezie, chiodi di garofano, pepe. Fate girare anche questo foglio qua. Questo è datato di qualche annetto. Ho messo 4 gocce di olio essenziale, guardatelo un po' contro luce, di camomilla, lavanda, cannella e pepe. È una goccia, guardate come si è, qualcuna si è allargata, qualcuna un po' meno, guardatele in controluce, un po' così, è giusto avere un'idea perché evaporano, ma non troppo quelle. Alcune sono molto simili, alcune diversissime. Sì, sì. Tutte diverse. Se le guardi sì, bene, poi vedi le differenze. È la stessa menta, una coltivata in montagna, l'altra in pianura questa. Quindi figurati ogni anno queste droghe, queste spezie, come possono risultare. E poi magari parliamo un po' se si vuole ottenere un prodotto invece più omogeneo. Cos'è che vi volevo dire? Dunque, sì, tutte queste sostanze, queste parolacce, questi nomi strani. Dunque, normalmente una pianta contiene queste sostanze. Allora, di quello screening, credo che si possa dire questo che vedete, dunque, il primo picco a sinistra è quello che si estrae subito. Un'estrazione, una distillazione dura 2 ore. Cosa succede? Quelle più volatili le estraggo subito. Quelle che estraggo per ultimo sono quelle più pesanti e dopo 2 ore di distillazione ormai sarà anche ben ossidata, ben cotta, ben andata. Gli oli essenziali vengono poi rettificati. La menta, per esempio, viene in genere 3R, rettificata 3 volte. Cioè io una prima distillazione, la ridistillo una seconda, una terza volta la ridistillo, scartando ogni volta l'inizio e la fine, mantenendo il cuore del distillato. Cioè all'inizio il primo 3-4-5% lo elimino, l'ultimo 4-5% lo elimino, lo ridistillo per avere solo la parte migliore, quella più centrale. Molte di queste sostanze sono state dichiarate allergene, cioè possono provocare allergie. Questo lo vedete in un cosmetico. Provate oggi quando andate a casa a prendere uno shampoo, a prendere una crema, forse anche un dentifricio, un cosmetico qualsiasi. Vedrete gli ingredienti, una serie di parolacce non troppo chiare. Gli ingredienti vengono indicati con il nome botanico latino, se naturale, lavandula angustifolia, per esempio. Nome chimico inglese, invece, se è una sostanza chimica, i saponi tensioattivi, no? Che non esistono in natura. Prendete uno shampoo e troverete una serie di parolacce che o siete più o meno, avete studiato, siete del settore, non so, lasciate perdere, ci capite niente. Però cominciate a farle entrare un pochettino in testa. Alla fine, passato tutta la sfilza dei conservanti, 1, 2, 3, 5, 10, 11 conservanti, vedrete questi limonene, geraniolo. Sono questi allergeni, sono. Allergeni vi indicano quindi che ci sono, quindi attenzione, se sei allergico al limonene sappi che qui c'è. Il limonene pare sia stato individuato come il peggiore in assoluto, nel limone rappresenta il 60% dell'olio essenziale, quindi non si può togliere. E vengono indicate adesso secondo la nuova normativa perché possono provocare questi problemi, sappiate che esiste. Ci sono degli oli essenziali che sono stati deterpenati, queste sostanze sono state tolte. Cioè come se io riuscissi dalla mia menta a togliere questo limonene, per cui alla fine non lo indico. Il fatto di vederli indicati alla fine non vuol dire che sono le polverine che sono state aggiunte alla fine. Sono semplicemente presenti in natura. Una volta ho visto un profumo fatto esclusivamente con allergeni. Cioè tu hai il tuo olio essenziale, togli gli allergeni, cosa fai? Li butti? Non si butta nulla, non si butta. Ho visto un profumo fatto esclusivamente di allergeni, aveva un profumo buonissimo, aveva. Poi sulla pelle, sei da pronto soccorso subito magari, però il profumo era buonissimo di questo, solo gli allergeni. Ho dato l'elenco, ho detto, tutti, non ne mancava uno, tutti c'erano. Una meraviglia, eppure era pure buono, era pure. Gli oli essenziali, olio perché sono affini all'olio. E si possono diluire in olio. Dunque, oggi si usa il termine olio essenziale e basta. Qualcuno, il figo di turno, non manca mai, usa terminologie un po' demodé, essentium, quintessentium, no? Termini medievali coniugati in latino, fa sempre scena, giusto? Scena e effetto secondario, innalzano il prezzo. Giusto, olio essenziale costa un prezzo, quintessentium non può costare uguale, ovviamente deve costare di più. Sono quindi, dicevo, facilmente diluibili gli oli essenziali, diluibili in genere in un olio. Prendiamo per esempio la rosa. Rosa, dunque immaginate distillare i petali di rosa, immaginate. I 100 kg ce ne vogliono per arrivare a 100 kg, ne dovete distruggere di roseti per ottenere 200-300 ml di roba. Prezzo in distilleria 1300-1500 dollari, euro, eccetera, eccetera. La rosa ha una concentrazione, una resa tale che anche già solo all'1%, cioè 1% di olio essenziale di rosa, 99% di altro, un olio leggero, un olio di semi, quello che si usa per il fritto, dà la stessa intensità apparente olfattiva dell'olio essenziale puro. Cioè io la rosa al 100% e rosa all'1% mi dà la stessa resa, mi dà. Perché ci saturiamo noi a un certo punto. È la sua caratteristica. Altri oli essenziali all'1% rendono zero. La rosa, allora, gli oli essenziali sono tutti diversi, hanno rese diverse, intensità diverse, sono diversissimi. Dire conosci quello e basta. Gli altri sono completamente diversi, devi vedere come si comportano, come si regolano. Questo vi sarà capitato degli oli essenziali, un mercatino dell'artigianato, eccetera, eccetera, trovare un olio essenziale a 2 euro, a 5 euro, a 10 euro, poi arriva la primavera, melissa bio, 1 ml, 49 euro. Lì c'è un altro perché, lì c'è. E fino a ieri tu lo etichettavi olio essenziale, punto. Quintessentium, eccetera, eccetera. Adesso devi distinguere se l'olio essenziale è puro o no. Se metti il nome botanico della pianta, lavandula angustifolia, secondo la nuova normativa europea vuol dire che è olio essenziale puro. Se invece c'è scritto parfum, vuol dire che è diluito. Non mi dice in che cosa, in che percentuale, cioè se ho usato olio di mais piuttosto che di arachidi, non mi dice se è all'1, al 5, al 10 o al 99%. So che è una diluizione, questo parfum della nuova legislazione. Un'altra cosa che vi vorrei dire prima di vedere qualche esempio pratico. Dunque, sulle erbe e loro derivati trovate tutti i libri che volete. Sugli oli essenziali non ne troverete uno, perché nessuno si prende la briga di mandarvi al pronto soccorso e quello è il responsabile. Dunque, per capire di cosa stiamo parlando, tenete presente che queste oli essenziali sono molecole estremamente infiammatorie. In genere si prendono gli antinfiammatori, no? Questi invece provocano l'infiammazione. Infiammazione vuol dire che se io butto giù questa o altre sostanze, essendo sostanze affini all'olio, la nostra membrana cellulare è oleosa, è affine all'olio, queste molecole di oli essenziali si infilano nella membrana cellulare, la destabilizzano, uccidono la cellula, cioè questa si destabilizza, si rompe e tutti gli organelli che sono dentro sono liberi, a loro volta si attaccano ad altre cellule, le distruggono, escono gli organelli che sono dentro, si attaccano ad un'altra cellula, questo è il fenomeno infiammatorio. Gli oli essenziali hanno questa proprietà, hanno. Dire quindi che, vado così a occhio, il timo lo prendo se ho un po' di influenza, 5-10 gocce di timo per una settimana, è un gioco all'otto. Può essere vero, può non essere vero, può provocare più danni di quelli che dovrebbe risolvere. Uso interno. Ci sono case produttrici che consigliano tutte le mattine per il tuo benessere 2-3 gocce di olio essenziale D e buttarle giù. Vale fino a quando tu non vai al pronto soccorso e prima o poi ci vai, prima o poi ci vai. Perché si accumulano queste sostanze? Non sono di facile smaltimento. Gli oli essenziali, quasi tutti, voi lo annusate, sentite subito, percepite subito una fragranza positiva, negativa, bella, brutta, quello che è. Si accumulano tutti quanti nel cervello, riescono a passare la barriera ematoencefalica. Non sono tante le sostanze che lo passano, queste sì. E una volta che sono dentro è difficile poi tirarle fuori, quindi accumula. Hanno la caratteristica di essere poi, anche in altre parti del nostro corpo, di essere accumulate. Quindi accumula, arriva al punto di rottura, prima o poi. Quindi il libro sugli oli essenziali non lo troverete mai. Nessuno vi dirà il timo va bene per l'influenza, se avete l'influenza prendete il timo. Perché prima o poi qualcuno finisce all'ospedale, ma perché hai preso il timo, l'ho letto su quel libro lì, ti vanno a prendere, se va bene ti dicono... Asfacim ti dicono se va bene, se va male, non so che altro ti dicono. Quindi un libro sugli oli essenziali non lo troverete mai da nessuna parte. Ma in quali casi le sostanze infiammatorie fanno bene alla salute? Ah, da nessuna parte. No, vanno bene se tu riesci a beccare quel microbo che ti ha scombussolato. C'ho l'influenza, prendo il timo. Il timo è quello più forte di tutti, quello più micidiale. Timo. Dose mortale 7 ml, 100, metà flacone, menta superiamo il 10, la dose mortale, soglia minima mortale, cioè gente che è stata, prove che sono state fatte, 7 ml di timo sono la dose mortale, gli effetti sono questi, non è una morte augurabile, però cioè, questa è la pericolosità di questa, l'efficacia, diciamo che sono molto efficace, sono. Prego? 7 ml. Flacone sono 10, ne avanza. Cioè, il rischio se uno è un pochino, cioè, inesperto, il rischio è altissimo. Per questo che gli oli essenziali nell'uso interno preparano questo purè, questo, no? Queste diluizioni in non so che cosa, si infarina, cose diavolo li fanno, dove l'olio essenziale alla fine è presente in misura dell'1-2%, per cui anche se tu ti scappa la cucchiaiata in più di questo purè, bene o male non c'è nulla, no? Di questo. Tu usare nella tua torta al limone l'olio essenziale puro, ti scappa qualche goccia in più, il disastro è fatto, il disastro. Per questo l'uso alimentare è un po' così. parlare di cure con gli oli essenziali è un poco più complicato. Dimmi. Allora, questo del, dunque, ci sono tantissime forme estrattive. Questa dell'estrazione idroalcolica è un'altra forma estrattiva, questa, con l'alcol estrai anche gli oli essenziali. Allora, l'alcol tu puoi usare una forma, fino a un po' di tempo fa si usa, qualche divagazione si può fare, va bene. Gli estratti idroalcolici erano a 20 gradi alcolici, vuol dire 20 parti di alcol, 80 di acqua. Quindi era poco più di una tisana quello che facevi, no? Con 20 gradi alcolici. La propoli si fa a 96 gradi alcolici, alcol puro. La gradazione alcolica più è alta, più oli essenziali tiri fuori. Quindi una volta con 20 gradi alcolici non tiravi fuori un fico secco. Oggi per ogni pianta c'è una gradazione alcolica diversa, in genere siamo sui 60-70 gradi, per cui estrai buona parte degli oli essenziali, ma estrai anche un'altra serie di sostanze e si parla di azione bilanciata. Adesso non conosco, l'olio essenziale di melissa sono 82 componenti, un'ottantina di componenti, la pianta ne contiene 200-300, per cui tu estrai buona parte dell'olio essenziale bilanciato da altre sostanze. L'esempio dello scorbuto è il limone. Il limone ha un'ottima azione contro lo scorbuto, l'olio essenziale di limone non serve a nulla. Perché si parla di azione bilanciata quando si parla di piante. Questa dell'estrazione idroalcolica, tintura madre di propoli, io prima vi ho citato la propoli, di melissa piuttosto che di altre piante, sono quelle che vengono usate per via interna proprio perché comprendono la maggior parte dei principi attivi della pianta. Per esempio contengono anche mucilagini, zuccheri, l'acqua li estrae, l'alcol no, un po' meno, la distillazione no. La tintura madre una parte ne contiene. Si parla di azione bilanciata, quindi è un'azione completamente diversa rispetto all'olio essenziale. Per contro non puoi dire voglio digerire, dormire, voglio prendere 30 gocce di olio di tintura madre di melissa. Non è sostituibile con 2-3 gocce di olio essenziale. L'azione è completamente diversa questa. Quindi non è così meccanica da trasporre l'olio essenziale di timo, tintura madre di timo. Questo, il timo è una delle piante più efficaci, più forti questa. Può valere anche per uso esterno questa storia di infiammazione? Sì. Allora, la tua pelle fa un po' da scudo, non sono tante le sostanze che riescono ad attraversarla, ti fa un po' da schermo. Rimane il fatto che però ha una sua sensibilità, anche qui l'uso di piante ad azione rubefacente. Un amico una volta mi ha detto che si è fatto un bagno, si è buttato dentro qualche goccia di olio essenziale di timo, ha detto che è uscito, era un peperone. E il timo sulla pelle ti fa questo effetto, ti stimola un po' troppo, la circolazione gli è andata bene una volta, due, tre, una volta è uscito gran peperone, un'altra volta una mamma mi ha detto una roba del genere, mio figlio, proprio perché le è stato consigliato olio essenziale di origano, è il gemello del timo, l'origano, frizionare il suo bambino appena nato con l'olio essenziale di origano. Ho detto, cosa? Se fa usate? E sì, poi un giorno si è lamentato e si è messo a piangere, era tutto rosso. Cazzo, mi vuoi ammazzare tuo figlio? Tu non lo so. Le erbe si usano se ne ho bisogno. Non è che tanto sono erbe male non mi fanno, ma sì, tanto buttiamo giù, tanto un fico secco, tanto. Quindi incide molto la quantità dell'olio essenziale? La quantità sicuramente, ma è anche la tua predisposizione. Io ho detto prima, vuoi digerire la sera, vuoi dormire, 30 gocce di olio essenziale di melissa, 30 gocce a ognuno di noi danno lo stesso effetto? Qualcuno un po' di più, qualcuno un po' meno, qualcuno sicuramente, c'è il discorso delle sensibilità, chi è più sensibile, chi meno. Se tu tutte le sere te le prendi, dopo un mese, due mesi, tre mesi, quella melissa lì vale come acqua calda, vale, no? Uno che la prende per la prima volta ha una sua funzione, poi c'è questa assuefazione, poi. No. vediamo qualche proprietà degli oli essenziali. Dunque, in genere, vabbè, si sceglie perché mi piace, perché l'uso esterno sicuramente è un altro fattore. Io vado dal massaggiatore, l'estetista, perché mi fa male qua, no? O questo usa un olio, una crema generica per massaggi e il massaggio fa, o se ci mette un olio essenziale dovrebbe metterci qualcuno che mi aiuti a passare il dolore che ho qua, no? Quindi andrebbe anche lì un po' visto il dosaggio, saperli usare, sapere quale mettere, eccetera, eccetera. Quelli più usati in genere non sono tanti. Perché sto guardando qua? Io dovrei guardare di là, come agiscono. Ma vediamo un pochettino questo. I deterpenati ve li ho detto. Ah, qualcuno avanzava l'ipotesi che possano essere prodotti di scarto, di rifiuto delle piante. Le piante fanno varie cose, cresce, pa, buttalo lì, olio essenziale. Cioè, sono tutte ipotesi buttate lì, ma non ce n'è una convincente. Perché la pianta, la lavanda fa l'olio essenziale? Lo si sa. Va bene. Allora, sono poco studiati anche queste sostanze. Le ha riprese Jean Valnet, siete troppo giovani, non potete saperle queste robe qua. Questo qua, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ho aperto delle cliniche, allora andavano ancora in uso le erbe, ci si curava con quelle, dove lui curava con oli essenziali. E lui faceva dei tamponi, come si fa oggi col coronavirus, no? Si fa il tampone. E poi li metteva a cultura con oli essenziali diversi e le sue risultanze davano sempre un'efficacia, una reazione ad oli essenziali diversi. Stessa patologia, stessi giorni, stesso tutto, reattivi ad oli essenziali diversi. Quindi dire che il timo è più efficace era un po' un modo di dire. Hanno azioni completamente diverse tra di loro. Dunque, quello del sistema nervoso, sempre, queste hanno un'azione in qualche modo sul sistema nervoso, in genere centrale, la menta periferica. Io mangio una caramella alla menta, qualunque roba mangio dopo non sento più nulla. La menta, mentolo, ha anestetizzato la mia lingua, ha anestetizzato le terminazioni nervose per un certo periodo. Mi passo la menta sulla pelle, mi do un pizzicotto, non sento nulla, la menta. Nei dopo barba, un taglietto, mi sono scorticato un po' arrossato, la menta, no? Per esempio. Qualcuno è un sull'apparato gastrodigerente, antispasmodica, qualcuno fa dormire, cardiocircolatori, stimolanti cardiocircolatori, sul sistema nervoso centrale. Molte sostanze, non solo la caffeina, io bevo un caffè, non dormo di notte, anche la menta. Un consiglio che vi do per i colpi di sonno in macchina, se guidate un po', come ho fatto io oggi, che ho guidato 10-12 ore, ho preso 3 ore di blocco totale, caramelle alla menta sul cruscotto, primo colpo di sonno, buttatene giù una, per un quarto d'ora, mezz'ora siete a posto, poi ritorna, poi. Però con questo siete immuni. Prego. La menta per caso, non so se è vero, ma ha un buon potere di rimarginare le ferite per caso. No, questa mi è completamente nuova. Perché c'è un rimedio della nonna che dice che sui brucoli si può mettere il dentifricio con la menta e si rimargina la ferita dopo che si è schiacciata per coprire il brucolo. Secondo me la menta non c'entra un fico secco, ma fa molto di più quello che c'è nel dentifricio. Questo gel, argilla, sostanze vengono usate per curare ferite. Ok, allora è quello. Se vuoi l'iperico. L'iperico è uno. Sono cicatrizzanti. Sapevo anche il geranio e la rosa moschetta. Rosa moschetta può essere geranio. La rosa moschetta perché è un olio. A livello di olio essenziale? Sì. Ma guardate. Guardate, una volta sono andato su a Piona, lago di Como, i frati, quella penisola che c'è prima di Colico in alto al lago di Como. Ma dove distillano un sacco di alcol? Gocce imperiali. Wow. Presa. Gocce imperiali. Lasciamo perdere, dunque, è alcol a 90 gradi? Sì, 90. E un 5% di oli essenziali, quindi è un digestivo all'amaro imperiale, beh, fuoco puro. Questi vendono le tisane che fanno loro o altri in giro sparsi per... Mi è capitato di prenderne in mano uno e guardarla, no? E ho notato qualcosa che non quadrava. Adesso non ricordo di preciso se era una digestiva, una per dormire, una per la circolazione. Una per dormire era, ho guardato bene le piante, mi sono messo lì, sono in quarto d'ora a guardarle, ho detto questa è questa pianta qua, questa è quest'altra, questa è quest'altra. C'erano delle piante che non c'entravano un fico secco, tipo per esempio, non so se ho visto la menta in una pianta per dormire. La menta ti tiene sveglio. E lì mi è venuto un dubbio, ho detto ma allora queste qua saranno ricette vecchie di qualche secolo, no? L'avranno inventata chissà quando, chissà chi, che non avevano fatto nessun corso di erboristeria. E a intuito hanno preparato sta roba qua e sarà fatta per un po' di secoli, vuol dire che funziona, vuol dire, no? Non penso siano così stupidi, invece di far dormire tiene sveglio, andiamo avanti per 500 anni a farle. E lì mi è venuto un dubbio, ho detto ma cos'è? Cioè, adesso nessuno ci metterebbe, faccio questo esempio, la menta in una tisana per dormire, nessuno ce la metterebbe oggi, perché ce l'hanno messa? Perché allora noi eravamo diversi, l'uomo era diverso e per dormire ci volevano queste piante con l'aggiunta della menta. Noi siamo cambiati, noi, cioè quella pianta, questa miscela, noi umani qualche secolo fa eravamo predisposti per questo e adesso non lo siamo più. Cos'è che è cambiato? Adesso non ce la mettiamo più questa pianta. Cos'è che è successo? Dando per scontato che quella tisana funzionava e funzioni ancora oggi. C'erano un po' queste stranezze, però di fronte appunto a avendo trovata lì i frati su a Piona, questo rimane. Azione eccitante o sedativa, la menta, no? La menta vi risveglia, aumenta la concentrazione un po' come la caffeina. No, non ce l'ho, non gliel'ho chiesto, anche perché quello che c'era lì era lì che leggeva il Vangelo, cosa gli vado a chiedere perché ci ha messo la mente quella, non gli ho chiesto nulla, non gli ho chiesto. Ma succede con la valeriana? La gente vende la valeriana per calmare. Per dormire, certo. Io mi agito tantissimo con la valeriana. Valeriana rossa o officinalis? No, non lo so, non un olio. Ma la prendi ancora? No, basta. Okay. Ah no, beh, ti tiene agitata. Mai più presa. Okay. E poi ci sono queste reazioni opposte. La valeriana è il classico rimedio per dormire, no, di notte. A lei fa questo effetto. Il mondo è bello perché vai. Il caffè, io se non bevo il caffè non dormo stanotte. Io bevo il caffè e non dormo tutta notte. Quindi che si fa? Quindi vedete un po' voi, vedete. Il dosaggio. Dosaggi diversi danno reazioni opposte, danno. Il caffè si dice che fino a 4-5 al giorno ti tiene sveglio e pronto, oltre ti deprime, ti fa effetto sonnifero, ti fa. Questo le ho sentite parecchie. Se la lasci troppo in infusione, esatto. Diventa esatto, qualcosa di erbe, bravo. Il tè che se lasciato in infusione 3 minuti rilascia caffeina, ma tipo se lasciato in infusione 10 minuti rilascia delle altre componenti che tolgono la caffeina. Urca, adesso questo del tè non te lo so dire, questo che rilascia o assorbe o tempi diversi hanno. Se ti dicono le piante ad olio essenziali bolle l'acqua, spegni qualche minuto in infusione poi servi, un motivo ci sarà, non è che ti dicono falla bollire mezz'ora, lasciala lì 3 ore e poi te la bevi, è diverso, ottieni cose diverse. Allora, se la fai bollire a lungo, per esempio, o la tieni al caldo, tutti gli oli essenziali evaporano. Già l'acqua non estrae nulla. Tenendola al caldo evapora tutto. Estrarrai sostanze pesanti, sostanze difficili da estrarre, che richiedono lunghi tempi, tiri fuori. E poi si ossida continuamente, bollendo, scaldandola a lungo. Sì. per le radici vanno bollite a lungo proprio perché è un legno, tu devi estrarre i principi attivi dal legno, un conto è la foglia, una foglia di menta, di melissa, la valeriana, il ginseng, queste radici devi farle bollire a lungo. A lungo non vuol dire 10 minuti, vuol dire 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, 2 ore, dipende dalla grossezza della pianta, da quanto è stata spezzata, dipende dalla pianta, dipende da cosa vuoi, di cosa vuoi estrarre. Sono tutte estrazioni diverse, metodi diverse. Guarda, hai tutte le asteracee a tua disposizione, la margherita, ecco, ti chiami Margherita, ecco, tu sei un digestivo, no, non è vero, tu sei un digestivo. Tutte le piante di quella famiglia lì sono sostanze, contengono sostanze amare, sono dei digestivi, cioè uno potrebbe digerire ogni giorno con una pianta diversa, utilizzando appunto queste piante amare, calendula, camomilla, la camomilla, è dolce solo se tu la estrai in acqua, tutte le altre forme estrattive sono amarissime perché contiene principi amari. L'erba iva è amaro, è amarissimo. Le piante con le quali si fanno gli amari, no? Quelle sono tutte uno dopo l'altro, sono tutti digestivi, quelli in genere coadiuvati da, sono tantissime queste piante digestive. Le margherite, le asteracee, queste sono tutte piante amare, tossiche che sappia io neanche una, e sono gli alcaloidi, quelle velenose, le atropa, le il giusquiamo, le piante delle streghe, sono quelle velenose, le altre no, o quasi. Ne ho forse vista una volta scorsa lì. Niente, come non detto. La ruta? No, l'erba morella, l'erba... L'ho vista lì. Dove? Guarda, cioè, niente, dai, guardo se c'è ancora poi dopo. Hanno tante attività. Allora, queste, vabbè, ve le dico. Se noi utilizziamo, facciamo una tisana, facciamo una tintura madre, un'estrazione idroalcolica... L'estrazione idroalcolica si può usare la grappa, è anche più buona. Ci metto dentro la melissa nella grappa e la occorrenza. Comunque, dicevo, quando facciamo le nostre forme... Whisky. Noi facciamo una qualche forma estrattiva di queste piante ad oli essenziali, melissa, menta, timo e tutte quelle che è lavanda che lo contengono, estraiamo una parte anche di oli essenziali, quindi svolgono l'azione che devono svolgere bilanciata da altri principi attivi contenuti nelle centinaia di principi attivi contenute nelle piante. Non c'è una forma estrattiva che mi permette di estrarre tutto, no? Le 240 della liquirizia non riuscirò mai con una forma estrattiva a estrarle tutte. La liquirizia, il solvente migliore è l'ammoniaca. L'ultima liquirizia che avete mangiato è stata estratta con l'ammoniaca. C'è un'azienda, una sola, qua in Italia, che li estrae e li dà a tutti quanti. Ammoniaca che poi viene separata, residuo inferiore a 0, eccetera, eccetera. Qualcosina sarà rimasta, può contenere tracce di ammoniaca, no, non è scritto sui TikTok, sui tabù, sui tabù, no, li fanno ancora, sì, i tabù. Per ogni pianta si cerca di usare il solvente ideale, adatto a quello che serve a me. Per esempio nella giungla amazzonica per estrarre la cocaina usano il carosene, usano. Non è il solvente migliore, però costa poco, ce n'è tanto. Si usa quello, poco tanto tiro fuori, poi lo separo, lo mando in qualche villetta della Bergamasco, della Sicilia a raffinare e si vende al prezzo che si vende. Può contenere, sulle dosi di eroina c'è scritto, può contenere tracce di carosene, no? Inferiore a, cioè su tutte le bustine c'è scritto così, no? C'è scritto, ecco. Quindi ogni... Può contenere zenzero, non l'hai mai letto, l'ultima volta che l'hai usato, non l'hai letto, può contenere, stai più attenta la prossima volta, può contenere tracce di nafta, di kerosene. Si usa di tutto, si usa dai gas critici, adesso si usano tantissimo per estrarre queste sostanze, pressioni, le piante vengono anche sottoposte a pressione di modo che le cellule si sfaldano in sostanza e l'estrazione dei principi avviene prima. Sono tecniche diverse per estrarre appunto, e poi fatta un'estrazione magari si passa a quella successiva. Col crash oppure con alcol, butano. Con ogni solvente, con ogni tecnica ottieni un principio attivo diverso. La camomilla, per esempio, se io la distillo, io tengo il mio olio essenziale blu inchiostro, blu, mica quel blu lì, blu. E poi la faccio riasciugare, posso rivenderla tal quale e nessuno si accorgerà mai che è stato tolto l'olio essenziale di camomilla, volendo. Le droghe si prestano a questo, le piante secche si prestano a questo, a questi, diciamo, diversi tipi di estrazione. Quindi estrarre le varie cose, c'è su niente di questo. Olio essenziale, se... Dimmi. La dicitura può contenere tracce, non si riferisce ad una percentuale, ma ad una sostanza che entra in contatto mediante, non so, la distillazione di un altro... Sì, questo rotolo può contenere tracce di prodotti da guscio, no? Questo. No, qua ovviamente non troverete mai sulla liquirizia può contenere tracce di ammoniaca questo. Magari adesso hanno inventato un altro solvente, un'altra forma estrattiva, però per quanta traccia c'è? Esatto, però la legge dice che non può superare il quantitativo X, quando non supera il quantitativo X non lo metti, questo. Quindi la liquirizia è quella che è, te la becchi, punto e basta, questa. Qualche cosa rimarrà. Tieni presente che qui stiamo parlando poi di sostanze che vanno a finire all'industria farmaceutica, quindi deve avere un grado di purezza molto alto, molto, molto elevato. Certo, gradi di purezza molto alti, il 100% è impossibile, ma parliamo del 90 rotti, no? Parlando dei principi attivi, molti l'industria farmaceutica li usa, estratti proprio dalle piante li usa. Quei principi attivi, vi dicevo, i flavonoidi delle arance, immaginate le tonnellate che ci sono in giro a costo zero. Una buccia d'arancia quanto costa? Zero, tu la devi buttare, no? Per cui la fatica è quella di estrarla. I semi del vinacciolo, vi dicevo, vengono importati dalla Francia, si estrae l'olio e poi si rimandano in Francia. Il costo è quello del trasporto alla fine, no? Per farci, non so che ci fanno i francesi con quest'olio. Grosso modo vi avrei più o meno detto tutto, grosso modo. Poi ci sono tutte le specifiche uno a uno. Tu quindi hai distillatori? No, allora il distillatore, chi distilla in genere fa solo quelle. I distillatori industriali è roba da 10 metri cubi in genere. Oppure nelle aziende agricole la menta viene distillata direttamente in campo, tu coltivi la menta, entri tagliaerba, tagli tutto a tappeto il campo, tutta la massa verde, la butti nel distillatore ed estrai. Il distillatore, per poter distillare qualcosa, il distillatore deve essere almeno di 100-200 litri di acqua. Almeno, perché possa contenere qualche chilo, decina di chili di prodotto che mi possa alla fine permettere di ottenere 100-200 ml di roba. Sono grandi macchinari. La pianta fresca è sempre meglio perché nell'essiccazione tu perdi sempre qualcosa. qualcosa che si altera la menta, tra la menta fresca e la menta secca. Si usa secca per questione di praticità. Cioè, o tu hai il campo con la menta fresca qui e qui c'è il distillatore, ma se tu non hai il distillatore, per cui la fai seccare e la porti dove ti pare. La porti nella fabbrica che ce l'ha, la mandi all'estero, eccetera, eccetera. La pianta fresca è sempre meglio usarla tutte le volte che si può, perché sono i principi attivi originali. Nell'essiccazione qualcosa lo perdi sempre. In generale, se tu hai a disposizione della menta fresca, fallo con quello l'infuso, sarà migliore, sarà. Nell'essiccazione le piante peggiorano sempre. Sono pochissime le piante che con... E sì, allora tu dovresti essiccarla a bassa temperatura, ma ci vuole tanto tempo, il costo aumenta, tu gli dai la bottarella alla temperatura giusta, poco tempo, il costo si abbassa. Non è mai specificato se un olio è fatto da fresco o da secco. Olio essenziale. Diversa, non è il distillato. No, non ti dicono come è stato estratto, se è fresco, se è secco, non te lo dicono questo. Sono poche, essiccando, sono poche le piante che migliorano in qualità. Nell'essiccazione si formano sostanze nuove che sono migliori di quelle, ma sono pochissime. L'edera mi viene in mente. Anticellulite. No, ma in genere e tanti altri principi attivi vengono invece proprio annullati, spariscono con l'essiccazione. La piantaggine o la usi fresca o non la usi del tutto. Quella è un'ottima pianta, ma devi proprio usarla così tal quale, secca. Il basilico, andate a fare la spesa al reparto droghe secche, troverete l'origano, troverete la cannella, troverete tutto. Il basilico non lo troverete mai, perché seccando perde tutto, lo ammazzi, non alla fine ti rimane fieno secco, nero ti rimane il basilico secco. No, se lo fai seccare, quello secco, e farglielo fare ai neozelandesi, dai, fanno schifo i neozelandesi. No, sì, ma i neozelandesi sono dei cani, sono. C'hanno tutto, impara a far da mangiare, no? Non lo sanno fare. No, i neozelandesi. Loro si chiamano i kiwi. Non si mangiano tra di loro. Le persone trapiantate inglesi. Esatto, i migliori sono gli uccelli, poi c'è il frutto, per ultimo arrivano i cristiani, per ultimo. Sì. Ha già iniziato a fruttificare o non ancora? No, è un po' presto, Speriamo. C'è mica su qualcosa, no? C'è mica su qualcosa lì in alto? Una lampada? No, mi sembra di vedere qualche... Non è il frutto, no? Ah, no. Non lo so. Ah, beh, un bel pergolato qua di kiwi, poi... Cos'è, le nespole? Sono vostre le nespole? Sì. E non è ora di coglierle? È che su è difficile. È così, cioè un nervoso gli viene. In questi giorni compriamo lo svettatoio e quello per. Le sprechiamo tutte, si stappano per terra, nessuno viene. E se nessuno va su a raccoglierle? Ma i rami sono piccoli. Vabbè dai, studiate qualcosa, studiate. Io volevo poi vendere la sua. Vendere? Cioè, ce ne sono talmente tanti che possono fare un sacco di cose. Dai, ingegnatevi, prendete qualcosa, fatelo. Consulente agrono. Ciao. E non hai inventato nulla per le nespole. Devi cogliere le nespole. Io ho detto di prendere il papà figo. Quel roba lì prendilo, no? Ho detto, basta prendilo. Prendilo. Bastoni, ma. Non vabbè, dai. Non ci siamo ancora attivati. Dai, prossimo è quello allora. Mandiamo qua il bue da qualche marmellata di nespole poi. Ma perché. No, io le mangio tal quali io. Sì. Perché vorresti adesso da mangiare, quello dici. No, mangiate. No, no, vederle lì così, vederle. No, forza, ragazzi. Gruppo, e lo lanciate su, una tecnica anche quella, va bene. No, per me sono mature, per me quelle robe lì. Quelle in alto sì, eh. Per me sono mature, ho viste così, eh. Ma io ne vedo una anche lì in basso. Tra l'altro sono molto buone. Queste sono buone. Sono belle, quelle che sono state qua ce ne siamo un po' bello. Quelle che hanno preso più luce sono belle pienotte, eh. Oh, non è ancora caduta una, quindi. Cioè, datevi da fare. Vabbè, ho sentito, io più o meno avrei finito, ecco, qualche altro. Dimmi, dimmi. Dunque, non l'essenziale, sì. Nel massaggio, dunque, l'olio vegetale, l'olio di mandorle, l'olio d'oliva, l'olio di cocco, quello che ti pare, ha la funzione di far scorrere le dita sulla pelle, no? Perché se tu vieni massaggiata senza l'olio ti scortichi, giusto? Quindi l'olio ha un po' questa funzione. L'altra funzione, l'olio poi, ha quella di veicolare i principi attivi sotto la pelle. Io ho un dolorino qua, no? Circolazione sanguigna. Metterò un po' di olio essenziale di timo, andiamo con rosmarino che ha lo stesso effetto e nessun effetto collaterale, nel mio olio, olio di mandorle. Nel massaggio prolungato, almeno 20 minuti, i principi attivi passano sotto la pelle. Quindi se per un mi fa male qua il dolore muscolare, ci metto il... Se tu dici qualcosa di rilassante, devi prendere qualche aroma floreale. Lì la funzione è non tanto attraverso la pelle, ti massaggiano la schiena, no, come fai a rilassarti, è attraverso l'olfatto, finiscono tutti qua dentro, finiscono. Nel cervello gli oli essenziali. Quindi più che il massaggio va bene anche l'aromaterapia, diffonderlo per la casa, no? Diffondere un profumo, un floreale. Una rosa, la lavanda, per andare a dormire, 2-3 gocce di olio essenziale sul fazzoletto, sotto il cuscino. Tu mentre dormi lo respiri, quello, no? Ma andrebbero bene anche i fiori? I fiori rilasciano piano piano olio essenziale, sì, certo. Ma è troppo piano per avere un effetto? No, troppo piano, no, ne metti lì un bel cuscinetto di olio essenziale. Cuscinetti della felicità li chiamavano, come che li chiamavano quelli lì? Avevano un nome del genere, con queste piante colorate e profumate dalle forme strane. Cuscinetto della felicità, la roba del genere era. La melissa, sì, l'olio essenziale, oppure se ti capita. La melissa, la lavanda, l'olio di sì, anche la melissa. La lavanda fresca o secca, in camera, quando vai a dormire, ti fa questo effetto. L'olio essenziale o la pianta che lo contiene. Però quindi, dopo che hai detto che entrano nel cervello, sono un po' preoccupato. E non esagerare, non farlo tutte le sere, ma tutte le cose sono così, non devi esagerare, a un certo punto ti devi fermare. Tutto così. Soprattutto le piante che contengono principi attivi, che hanno queste funzioni, che qualche cosa fanno, che modificano il comportamento cellulare. Se ti serve lo usi, se no lascia stare. Tutto qua. La melissa, ad esempio, io personalmente, che ce l'ho spesso nei campi, il germoglino in cima lo mangio spesso, perché è un po' frizzantino, no? Un po'. Sa di limone, un digestivo, se vuoi, ha queste proprietà rilassanti. Se senti che è forte, magari vuol dire che è forte. No, sono principi attivi, io non lo farei tutti i giorni, io, ecco. Ma questo qua. Ma così anche il caffè. Se ti serve qualcosa fallo, ma se le butti giù così per così, vacci piano, vacci. Sì, magari perché ho un po' di sete, mi sono dimenticato l'acqua. Allora l'erbaciuca prendi, dai. Prendo, di solito quelle che mi piacciono di più sono l'Artemisia vulgaris. Va mica bene. Seta di brutto. Va benissimo quella. Va benissimo quella. Non se esagerare. Non esagerare perché quella lì contiene una quantità di ossalati, prima o poi ti vengono i calcoli. Anche qui, sia sempre qua. Allora, quando ci ho fatto l'assenzio era meglio non farcelo. Ostrica, sia sempre qua, usale ma poco per volta. Non andare avanti all'infinito che mi piace. Calma un attimo. No, ti danno i loro. Ma tu quanti oli produci? No, io non ne produco neanche uno, io li prendo tal quali, in una distilleria ne ho 30 o 40 di questi, ne ho. Tutta roba nostra, l'abbiamo fatta noi quelle. Esperimenti. Sì, guarda, abbiamo rifatto completamente il 100% di tutta la nostra gamma nel 2014-2015, non so quante centinaia di prove abbiamo fatto io e Ilaria. Volevamo cambiare completamente nuove, abbiamo rifatto per esempio i nuovi tensioattivi. Sono arrivate nuove generazioni di tensioattivi che lavano, fanno schiuma, prezzo abbordabile. Lì abbiamo introdotto i nuovi shampoo, i nuovi detergenti, lavano, vegetale. Adesso da un giorno all'altro aspetto il bollino bio, aspetto. Siamo alle battute finali, quindi ci siamo, spero, non vedo l'ora di cominciare. Da un giorno all'altro partiremo. Sì, le prove le facciamo noi, si parte da una base, ma anche perché arriva una materia prima nuova, il produttore ti dice anche in che ambiente usarla, in che percentuali, in abbinata o a che cosa, ambiente acido, alcalino, non devi abbinarlo a quest'altro, per cui ogni ingrediente ha abbinato un pezzo di formula, no? Per cui tu metti insieme vari pezzi di formula e poi alla fine cerchi tu di giostrare, di trovare l'equilibrio, di introdurre una pianta piuttosto che un'altra, un olio essenziale piuttosto che no, a seconda di quello che serve. Per cui sono tutte, no, le abbiamo rielaborate tutte quante noi quelle, le facciamo noi queste. Siete un po' chimici? No, io sono un ragioniere, lavoravo in banca io. C'è una ragazza che ha studiato erboristeria, abbiamo il direttore tecnico, è un chimico, ma di erbe questo non sa nulla, questo. No, il nostro chimico, il nostro tecnico è quello dell'azienda produttrice di quelle materie prime. Inventano una nuova materia prima, un nuovo emulsionante. Ok, cos'è questo? Una volta ti dicevano arrangiati, proprio tu devi metterti lì, proprio fare le prove. Adesso invece ti dicono devi usarlo in questo modo qua, fai delle prove tra il 2, il 3, il 5%, evita quello, oli non più del 10%, eccetera, eccetera. Ti dicono un po' come usarlo. Quindi chi meglio di chi l'ha prodotto ti dice cosa fare, poi raccogli appunto i vari pareri, no? Vari ingredienti e poi tu ci aggiungi il tuo, ci aggiungi le tue erbe, le tue. Io ho studiato di fitopreparatore qua a Milano, un bel corso, la mia competenza è quella, poi ripeto, lavoravo in banca, c'è una ragazza che ha studiato erboristerie, tecniche erboristiche. E... All'università qua, sì, a Milano? Sì, a Città Studi. Sì, l'ha fatto. Tra medicina e agraria. E infatti è rimasta un po' delusa del corso. Sì. Si aspettava, ma tutti i tirocinanti che ho avuto là, tutti sono rimasti delusi dal corso che ha fatto. Si aspettavano altro e invece ero lì a fare chimica, invece ero lì. Informati, no, senti un po', no, le fanno, ok, va bene, però. Tornando indietro avevo un'altra domanda. Che ho sentito prima che dicevi che l'olio essenziale di lavanda era più consigliato come aromaterapia rispetto che su un massaggio, bene? No, non l'uno e l'altro si integrano le cose. Sì. Gli oli essenziali, dicevo, escludendo l'uso interno, un po' l'uso esterno. L'uso esterno può essere l'ambiente, il massaggio, che altro? Ci limitiamo a quello, ci limitiamo. L'olio essenziale in un olio per massaggio ha una sua funzione sulla pelle, il rosmarino dove tu lo applichi la pelle diventa rossa, ha un'azione rubefacente, stimola la circolazione del sangue il rosmarino. Inalato sul sistema nervoso centrale il rosmarino è considerato anche lui un risvegliante, uno di quelli che ti tiene un po'... Ti è più pronto di a reagire, più sveglio, diciamo così. La memoria è il ginkgo, la memoria. Gli usi degli oli essenziali, vari usi degli oli essenziali. Tutto qua. Poi più delle volte si prende perché a me piace quel gusto lì. Basta, a me piace quello e lo metto in tutte le salse. Ci sono aromi particolarissimi che o li ami o li odi, patchouli, sandalo. Qui proprio o ti piace o lo sbatteresti via appena lo senti. Sandalo aroma legnoso maschile, sandalo, vetiver e patchouli. L'aroma, il gusto del barbiere, il profumo del barbiere, quello da donna non so come è mai entrato. Di cosa sa un profumo? Mettete una parrucchiera, che profumo senti? Di Chanel numero 5? No, Chanel, no, neanche. Quello da uomini è il vetiver, il profumo che si sente dal barbiere. Poi dopo barba. E questi aromi legnosi sono tre: sandalo, patchouli e vetiver. Patchouli è troppo forte, sandalo è tenue, vai di vetiver ora. Il vetiver va sempre bene. Io faccio gli oli però in maniera vecchio stile, come ha detto prima, tipo egiziano. Cioè nel senso, va benissimo. Olio d'oliva e lascio un mese e mezzo, ma cioè, funziona allo stesso. Va benissimo. Un mese è il tempo giusto perché l'olio è un po' lento ad estrarre. Poi ci sono anche per le tinture o le grappe, cioè chi le mette al sole e chi no. E qui sono tutte ricette. Allora, il sole rovina i principi attivi. Però se a te interessa soltanto il gusto e non quel principio attivo, l'erba IVA, se ti interessa avere quel gusto amaro, va bene. Se ti interessa avere anche le sue proprietà curative, non metterla al sole. Dipende cosa vuoi, se vuoi farla buona o se vuoi farla utile. Se vuoi farla utile devi mettere un certo quantitativo di pianta. Se vuoi farla buona al gusto di, basta anche poco. Dipende cosa vuoi ottenere, dipende. Il bello delle piante è proprio questo, ci giochi dentro, te la giostri, te la giochi tu, te la giochi come vuoi. Imparare a conoscerlo. Io dico sempre, beh, concluderei, allora ognuno di noi ha bisogno di quelle 3-4 piante. C'ha bisogno, no? O perché io lo digerisco, io non dormo, io non vado in bagno, io ho problemi circolatori, io ho problemi di ciclo, le femminucce, io. Quei 3-4 problemi lì. Andate un pochettino a fondo sulle varie piante. Poi magari fate qualche cosa voi in casa, vedete le varie forme estrattive, che cosa potete fare, cominciate un po' a diventare pratici di quello. Dicevo prima, digerire, uno può digerire ogni giorno con una pianta diversa, talmente tante ce ne sono, quelle aromatiche, quelle amare, finché volete. A disposizione ce ne sono tantissime, provate un po' a focalizzarvi su quello che è il vostro disturbo, il vostro fastidio, il vostro problema lì così, guardate un po' quelle 3-4 piante che vi possono interessare, vedete un po' se e cosa. Comunque a livello digestivo la genziana non ha pari, come ho provato io almeno su me stesso. Con i germogli nel campo. No, la ricetta di genzianella montana. Ehi, un po' protettina e un po' clandestina da raccogliere, va benissimo quella. Non è che la raccolgo. Ce ne sono mille, ce ne sono, guarda, di piante. Sono anche un buon limoncino fatto con tanti... Anche quello mi aiuta a digerire. Sì. Le serate a cinghiale, che poi diventi penti. Poi un limoncello quello che ha più oli essenziali che alcol. Vedi, te la costruisci tu, te la fai tu come vuoi. Una volta si usavano ma vini Barolo, vin Santo, si usavano quei vini lì per fare quelle robe lì. Mica, certo, li vendevano in farmacia. Tu parli di genziana, si estraeva, c'è anche il suo vino indicato, o era Barolo o era vin Santo, mica si parlava di Barbera o di Riesling. O... Io che faccio le cose in casa, non so, volevo sentire il parere di uno più esperto, uso... da Bari, sì. Una moca è la tecnica dentro, anche quella, perché c'è la passiflora lì vicino, allora ci metto lì le foglie, usa ingredienti di buona qualità, usa un buon vino che sia un po' di gradazione piuttosto alta, bianco rosso, vedi un pochettino, tu parti con degli ingredienti di buona qualità, basta e il risultato sarà ottimo, guarda. Però gli strumenti sono un po' così, va benissimo. Il limoncello come vuoi farlo? Sì. Quello che viene fuori è sì. C'è un po' di olio essenziale e un po' di acqua tendenzialmente. Se vuoi provare la camomilla, la prossima che fai, però sta di caffè, però la caffettiera che hai. Senti, camomilla al caffè, ti prova, dai, vedi cosa esce. Prova a usare la caffettiera una volta, prova. Io le faccio le tisane di ginkgo. Ginkgo, ok. Falla come ha detto lui, nella caffettiera, prova. Al posto del caffè metti le foglie secche, fresche, se quello che hai, di prova. Poi diluisci un po' per essere sicuro che non sia troppo forte. No, sì, ma no, va bene così, ma no. Ma no. No, le cose fatte bene. Beh, in abbondanza. Se sei conciato usane tanta, ma se stai bene, se non hai nulla, non devi. Non devi prendere, non devi esagerare. Va bene. Diretta numero 2? No, basta così, grazie. Uno l'ho bevuto a mezzogiorno perché col caldo che c'era. Va bene così, signori. Grazie. Prego. Adesso tocca a voi, buona fortuna, datevi da fare, dateci dentro. Vai con l'agenziana. No, ma io in verità produco.